Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it. Roma, la Chiesa nella città. Bentornati ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi ricordo la pagina Facebook di questa trasmissione che si intitola appunto Roma, la Chiesa nella città. E dunque oggi abbiamo davanti a noi 29 minuti molto importanti perché cominciamo un ciclo di trasmissioni e ci porta per mano, ci accompagna in questo ciclo di trasmissioni il professor Emanuele Castelli, che è uno storico della Chiesa antica, filologo classico e ricercatore all'Università di Basilea nell'ambito del progetto europeo per la digitalizzazione e lo studio dei manoscritti greci del Nuovo Testamento, dai primi papiri sino a Erasmo e al Rinascimento. Con il professor Castelli vogliamo ricostruire intanto la presenza degli apostoli, come si sono formate, come erano le primissime comunità cristiane. Vogliamo cercare di capire insieme a lui cosa sappiamo di sicuro, cosa è probabile e quali sono gli ambiti invece nei quali non abbiamo documenti, non abbiamo testimonianze, dunque nulla sappiamo. Cominciamo questo viaggio insieme al professor Castelli. Grazie. Allora, no, anzitutto il primo discorso da fare per inquadrare questo argomento è quello di tenere conto di come si presentava Roma nel primo secolo, ecco, diciamo così, nella prima metà del primo secolo, agli inizi dell'età imperiale. Se stendessimo una carta geografica, dovremmo dire che tutta la città era sostanzialmente, la grande parte della città era da un lato del Tevere, cioè da quello che oggi è familiare a tutti i turisti per il Colosseo, per i fori imperiali. Lì c'erano i palazzi del potere, lì, diciamo, c'era la città. Dall'altra parte, senz'altro nel primo secolo avanti Cristo, non si estendeva la città di Roma. C'erano alcuni gruppi che si erano insediati, sostanzialmente a quello che sappiamo noi di orientali, e tra questi gruppi c'erano gli ebrei. Con l'avvento dell'impero, con l'età di Augusto, l'imperatore decide innanzitutto di strutturare la città in un certo numero di quartieri e fa un'eccezione. Questo insediamento al di là del Tevere, dall'altra parte del Tevere, cioè Transtevere, lo rende anch'esso un quartiere a tutti gli effetti della città di Roma. In questo quartiere, dicevo, c'erano molti orientali e soprattutto ci vivevano, a quello che sappiamo, i giudei. Utilizzo qui il termine giudei in senso tecnico, perché la parola che noi abbiamo normalmente nelle fonti, e per oggi noi usiamo in italiano il termine ebrei, però in greco iudaios indicava proprio l'ebreo legato alla sua terra, diciamo alla Giudea e a Gerusalemme. Allora lì ci vivevano i giudei. Noi abbiamo anche un certo numero di iscrizioni che attesta con sicurezza l'esistenza di alcune sinagoghe. Queste iscrizioni sono circa un 10-15, è difficile datarle tutte con precisione, ma almeno 4 o 5 dovrebbero appartenere alla prima metà del primo secolo d.C. Ecco, in questi ambienti andarono i primi credenti in Gesù ad annunciare il Vangelo. Questo è il primo dato essenziale. Quando sono arrivati? Ecco, torniamo, esatto, professore, ottima questo suo inquadramento, perché è importante, diciamo, renderci conto della dimensione, diciamo, urbanistica dove ci stiamo collocando. Veniamo ora a Pietro e Paolo, sì, prego. Beh, anzitutto, quando loro sono arrivati? Ecco, dobbiamo dire che sicuramente prima di Pietro e Paolo sono arrivate altre figure, questo diciamo è certo. Negli Atti degli Apostoli a un certo punto si dice che Paolo, mentre diciamo era arrivato a Filippi e comunque in Grecia, si trova di fronte Aquila e Prisca, che erano stati banditi da Roma intorno al 49-50 per un provvedimento di espulsione dei giudei dalla città di Roma voluto dall'imperatore Claudio. E Luca non dice esatto, non entra nei particolari di questo provvedimento di espulsione e non dice neppure, non ci dice nulla praticamente sul trascorso di Aquila e Prisca, ma noi possiamo certamente, diciamo, dedurre che erano già cristiani prima dell'arrivo di Paolo, prima dell'incontro con Paolo. Lo sappiamo perché Luca non manca mai di sottolineare i personaggi, le personalità che l'apostolo convertiva. Qui si limita semplicemente a dire che si incontrò con loro, si unì con loro nell'attività missionaria e anzi, diciamo, prese anche a collaborare con loro per la vita quotidiana. L'interesse di Luca negli Atti degli Apostoli è evidentemente quello di far apparire Paolo come il primo grande evangelizzatore della città di Roma. Però, senz'altro, prima di lui, cioè prima del 50, c'erano stati altri giudei che erano andati ad annunciare il Vangelo. Alcuni anni più tardi, probabilmente nel 56, Paolo scrive una lettera ai Romani e gli partecipa il suo desiderio, ovviamente agli ebrei a Roma in questo senso, e gli partecipa il suo desiderio di venire un giorno a lavorare per il Vangelo anche lì. Quindi diciamo così, fino al 56, se accettiamo la cronologia che generalmente si dà di questa lettera, anche se è vero che per molti aspetti sono molto discusse, ecco, Paolo non è ancora a Roma. Più difficile è prendere una posizione sul caso di Pietro, perché abbiamo notizie certamente del fatto che Pietro dalla Palestina si è gradualmente spostato verso Roma, ma a un certo punto di lui si perdono con esattezza le tracce, ecco. Si perdono le tracce, per cui le datazioni che sono state proposte, o le ipotesi meglio che sono state fatte, sono diverse. Si è addirittura ipotizzato che Pietro sia venuto una prima volta a Roma negli anni 40 e ci sia poi ritornato molto tempo dopo. Tracce sicure, prove sicure della cronologia dei due apostoli noi non le abbiamo. Teniamo presente che quando Paolo nel 56 scrive la lettera ai Romani, alla fine della lettera, in un lungo capitolo fondamentale, fa una serie di saluti a varie persone che egli sapeva dimoravano nella città. Pietro non è menzionato. Questo non significa che Paolo alla fine della lettera abbia voluto necessariamente menzionare tutti quelli che conosceva. Anzi, si è pure pensato che tutti i nomi menzionati siano figure vicine a Paolo, mentre ce n'erano sicuramente delle altre che non lo amavano per il tipo di Vangelo che lui annunciava. Comunque, è un fatto che Pietro non viene menzionato. Noi l'unico dato su cui possiamo riflettere è che sostanzialmente durante la fine dell'età neroniana i due apostoli sono a Roma e senz'altro Pietro, anzi questa è anche la tradizione, che Pietro perde la vita nel 64 durante la persecuzione di Nerone. Diciamo così, in definitiva, ripeto, è molto difficile per Pietro in assoluto stabilire una data precisa e per Paolo la possiamo stabilire dopo il 56. Rimane comunque assodato alla luce di quello che sappiamo che i due apostoli furono a Roma, questo senz'altro. Ecco, non solo furono a Roma, ma c'era naturalmente un nucleo molto molto importante, no? Molto consistente. Ecco, io vorrei anche che lei ci desse, professore, per cortesia, qualche indicazione di natura anche teologica, no? Nel senso che questa presenza dei due apostoli a Roma è successiva a quello che negli atti è stato poi chiamato il Concilio di Gerusalemme, cioè la grande decisione di andare ad evangelizzare i non ebrei, i gentili. Ecco, diciamo, c'è questo naturalmente, quindi Roma diventa importante perché era il centro del mondo antico. È esatta questa ricostruzione? Sì, sì. Certamente Roma nel primo secolo d.C. era una città internazionale, anzi molto più internazionale della Roma attuale. Se pensiamo che rispetto a tutte le città dell'impero romano, Roma anzitutto aveva un numero vertiginoso di abitanti, probabilmente 600-700 mila, il che, considerate le necessità di approvvigionamento di risorse idriche, era qualcosa di eccezionale. Teniamo conto che la città più grande dopo Roma in Italia agli inizi del secondo secolo è Ostia, che avrà avuto al massimo 80-100 mila abitanti, e Napoli ne aveva agli inizi dell'età imperiale 20-25 mila. Quindi questo per dare l'idea di che cos'era Roma. Poi senz'altro era, come ci dicono le fonti, un mondo in piccolo, la sintesi del mondo abitato, perché ci abitavano figure di varia estrazione, africani, dall'Egitto, dall'Asia Minore e così via. Diciamo quindi tutta la popolazione dell'impero nel piccolo era proiettata nella città. Ovviamente noi sappiamo già dagli atti, ma da altre testimonianze, che l'ebraismo, diciamo così, aveva dei vari gradi tra coloro dei davvero e altri che, pur non essendolo, i proseliti si erano gradualmente accostati, avevano accettato la legge di Mosè. Come le diceva, quando c'è stata questa riunione a Gerusalemme per decidere cosa fare rispetto a quelli che non provenivano dal giudaismo, se farli accettare in toto non solo la legge mosaica, ma tutta una serie di regole, diciamo, di osservanza degli ebrei, sono state prese, diciamo, delle misure di compromesso. Noi quello che possiamo supporre è che anche a Roma, soprattutto con la presenza degli apostoli, si sia avvenuta a creare questo tipo di conflittualità. Dicevo prima della fine della lettera ai Romani, che è un testo di centrale importanza, perché se noi scorriamo tutta la lettera, si capisce bene che Paolo sa che il suo arrivo ad alcuni credenti in Gesù, ma più giudaizzanti, molto più giudaizzanti, sa che il suo arrivo non sarà ben visto. E allora manda questa lunga lettera per spiegare il suo Vangelo, per giustificarlo. E alla fine, come dicevo, fa una serie di nomi per fare probabilmente vedere che anche lui ha un certo appoggio, anche lui ha un certo seguito nella città. E ci farebbe piacere sapere, con l'arrivo di Pietro, le cose come si sono messe. Noi quel pochissimo che sappiamo su Pietro, di fatto, lo dobbiamo a una grande figura della storia della Chiesa, che è il vescovo di Cesarea, Eusebio, che agli inizi del IV secolo ci dice che Pietro, insomma, era affiancato da Marco e Marco gli faceva da interprete. E questo è quello che sappiamo. Poi nei dettagli, il contenuto della predicazione di Pietro, questo purtroppo ci sfugge. Questo vuol dire che c'erano nei primi secoli del cristianesimo, con Eusebio di Cesarea che lei ha appena citato, c'erano delle fonti che a quel tempo esistevano e che noi abbiamo poi perduto col passare dei secoli, probabilmente. Sì, allora, senz'altro, ecco, ci sono delle fonti scritte che noi abbiamo senz'altro perduto, ma poi il problema maggiore, soprattutto per le origini del cristianesimo, riguarda in generale la perdita della memoria. Ovviamente, se questa non era scritta, le prime generazioni, se non se la sono tramandata nel dettaglio, è andata svanendo. E questo riguarda in particolare proprio la prima generazione di credenti in Gesù. E in Luca, ma anche, diciamo, in altri Vangeli, comunque, dalle lettere di Paolo si ricava che per molti era percepito l'arrivo imminente Il secondo avvento, il ritorno, certo, sì. il secondo arrivo. E quindi in quest'ottica, che senso aveva produrre per quei pochissimi, diciamo, credenti che ci saranno stati monumenti scritti, produrre libri sui libri, produrre epigrafi e qualcosa del genere? Perché, diciamo così, i primi decenni del cristianesimo noi li dobbiamo inquadrare in un duplice binario di apocalittici e integrati. E molti sono apocalittici, nel senso che aspettano e credono nell'imminente ritorno del Signore. E qualcuno è integrato, cioè qualcuno senza farsi prendere troppo da questa ansia apocalittica si serve degli strumenti di comunicazione scritta per ovviamente evangelizzare e poi di fatto anche per trasmettere la memoria. Però è un fatto che sia perché numero di credenti in Gesù in questa fase ovviamente è esiguo, è vero, è tutto in ambito, sostanzialmente in ambito, diciamo, giudaico ed esiguo, sia perché le testimonianze scritte saranno state pochissime e affidate a materiale deperibile e non sappiamo quanto abbiano circolato, noi sostanzialmente siamo, alcune volte nei casi fortunati possiamo riflettere su qualche dato, altre volte è buio assoluto. Le preoccupazioni degli storici di oggi non sono certo le preoccupazioni delle persone che in quei primordi del cristianesimo vivevano e lavoravano, cioè loro non si ponevano, voglio dire, il problema storico, no? In effetti, come ce lo, quindi di ricostruzione storica, come ce lo poniamo noi. Quindi c'è anche una questione di mentalità, voglio dire, ecco, di mentalità che cambiano con lo scorrere dei secoli. Però questo che lei sta dicendo introduce un altro elemento sul quale forse sarebbe interessante capire cosa sappiamo, cioè se a suo avviso e in base appunto alle fonti che abbiamo, la predicazione degli apostoli in quei primi decenni, ecco, se quella predicazione era solo annuncio oppure se possiamo dire che c'erano già delle preoccupazioni organizzative. E poi ancora introdurrei un altro elemento, professore, da quello che lei sta dicendo. Se noi parliamo degli anni 50, 60, 65 dell'era cristiana, questo vuol dire che i Vangeli ancora non c'erano, non erano ancora stati scritti nella loro forma definitiva. Rispondo anzitutto alla domanda sui Vangeli, ecco, lasciando stare le immense ipotesi che si sono fatte su questo, diciamo così, la tendenza tra gli studiosi è di considerare Marco come il Vangelo più antico, scritto prima del 70. Gli altri, Matteo, Luca e soprattutto Giovanni, nei decenni successivi. Questo naturalmente non significa che, diciamo, prima di Matteo, cioè del Vangelo, di Marco, cioè del Vangelo, così come noi lo abbiamo, se è vero che è stato scritto poco prima del 70, non ci fossero testimonianze scritte. Anzi, proprio alcune parti di Marco ci danno l'impressione che i missionari, come ausilio per la predicazione, avessero per iscritto dei racconti, delle semplici parole di Gesù o determinati eventi che poi via via sono stati assemblati, uniti dall'autore del primo Vangelo, di quello che noi chiamiamo Marco. Ripeto, anche questa è tutta una tradizione scritta che è andata perduta o che è confluita in quello che noi possediamo dei Vangeli. Invece, per ragioni organizzative, ecco, un primo dato di fondo rimane sempre quello che dicevo prima, cioè i primi decenni per molti sono vissuti in un'ottica apocalittica. Il Cristo ritorna e non ha più molto senso preoccuparsi di chissà che cosa perché il mondo sta per finire. Certamente per i loro incontri hanno dovuto i credenti Gesù fare fronte a delle semplici necessità di carattere organizzativo. Ancora una volta dalle lettere di Paolo e dagli Atti degli Apostoli ricaviamo l'essenziale, cioè un tipo di incontro che si svolgeva in una dimensione domestica. Alcuni credenti in Gesù mettevano a disposizione un ambiente della loro casa per la riunione con i fratelli della fede, ma questo ambiente terminato, diciamo, l'uso. flusso, diciamo così, liturgico, poi veniva riassorbito per le normali funzioni. Per ciò che concerne un po' più la struttura organizzativa, dobbiamo dire che i primi missionari si consideravano direttamente responsabili della gestione delle comunità che fondavano. È il caso di Paolo, no? Lui si muove in diverse regioni, fonda numerose comunità, per quello che è possibile le gestisce con le sue lettere, altrimenti lui parla sempre di un binomio, diaconi e vescovi. Diciamo, questo binomio noi evidentemente abbiamo difficoltà a determinare la natura e l'esatto ministero di questi diaconi e vescovi che erano presenti nella singola comunità, però sono questi, in assenza dell'apostolo, a gestire la comunità fondata. Ecco, a questo proposito vorrei fare un inciso. Se ne è parlato, diciamo, nelle settimane scorse, ma vale in generale. Ecco, noi usiamo la parola diaconi e vescovi, no? Ecco, noi dobbiamo tenere sempre presente un punto, che le parole rimangono le stesse anche per secoli e secoli, ma i significati cambiano. Quindi quando noi diciamo diaconi e vescovi, non dobbiamo assolutamente pensare che il ministero, noi ne siamo informati praticamente per nulla di cosa consistesse, ma non dobbiamo assolutamente pensare che quelle parole, siccome le abbiamo fatte poi proprie noi, avessero lo stesso contenuto, lo stesso significato. Il fatto stesso che Paolo parli di più vescovi all'interno di una sola comunità ci fa capire che questa parola all'origine designava un ministero ben diverso da quello che per noi è il vescovo e che è diventato qualche secolo. Sì, questo è molto importante. Credo che potremmo però forse partire dalle etimologie, cioè per quale motivo diacono, per quale motivo vescovo, professor Castelli? Ma diciamo così, il diacono sostanzialmente aveva, a quello che possiamo sapere, aveva delle funzioni di ministero e di assistenza all'interno della comunità. Il vescovo è notissimo che viene dal greco episcopos, che voleva dire sorvegliante, però ripeto il fatto che dalla documentazione paolina emerga che Paolo parla di più vescovi, più episcopi all'interno di una comunità, fa capire che la funzione che diaconi e episcopi avevano all'interno di una stessa comunità non era quella che poi si è avuta nei secoli successivi. C'è un aiuto che ci può venire anche dalle ricostruzioni, dagli scavi archeologici? Si parla, ad esempio, si parla di catacombe. Allora, le catacombe che noi conosciamo erano quelli i luoghi in cui si riunivano i cristiani, oppure, come dice lei, come ci ha detto lei prima, queste riunioni avvenivano soprattutto in case private, come si passa dalle case private alle catacombe e poi alle chiese come le conosciamo? Sì, dobbiamo fare un discorso di linea molto più generale. E quindi, se vogliamo parlare di dimensione domestica, poi dell'uso delle catacombe, che vedremo quale effettivamente è stato, e poi di veri e propri luoghi di culto che noi chiamiamo chiese, dobbiamo fare un discorso che abbraccia almeno i primi 4 secoli del cristianesimo. Anzitutto va precisato che quando parliamo di catacombe non parliamo mai di realtà precedenti alla fine del secondo secolo, o ancora meglio, con più sicurezza, agli inizi del terzo. Solo dagli inizi del terzo secolo a Roma si assiste sostanzialmente allo sviluppo di una serie di catacombe, e queste avevano funzione eminentemente funeraria. Poi, soprattutto in età moderna, si è sviluppato il mito, perché di questo si tratta, che i cristiani si rifugiassero nelle catacombe in tempo di persecuzione, ma è davvero un mito. Alcuni miei colleghi si sono recentemente interrogati e hanno cercato di rispondere anche al perché è nato questo mito. Forse perché c'è la tradizione che intorno a 250, durante le persecuzioni, il vescovo di Roma, Sisto, con il diacono Lorenzo, erano stati sorpresi a celebrare messa nella catacomba di Callisto. Ma dobbiamo tenere presente che dove stavano celebrando il vescovo e il diacono Callisto è all'inizio della catacomba, in una realtà monumentalizzata dove c'erano le tombe dei vescovi di Roma, cioè lì all'inizio della catacomba si voleva realmente fare la liturgia, ma poi in tutte le carine, nel resto delle catacombe, ci accedeva semplicemente chi portava i corpi dei defunti, quindi non era un luogo della liturgia le catacombe, se non in casi eccezionali come quello che ho detto. Lei sta dicendo che nel primo e nel secondo secolo sicuramente questi primi cristiani, che erano gruppi di alcune centinaia, prima decine, poi alcune centinaia di persone, si riunivano prevalentemente nelle case private e sono andati avanti così, diciamo. Ecco, allora a questo punto noi abbiamo l'idea, lei mi corregge naturalmente se io sbaglio, noi abbiamo l'idea che questa vita della prima comunità cristiana, stiamo parlando di Roma in questo caso, sia stata una vita contrassegnata dalle persecuzioni, ma che certamente ci sono state, però forse nell'arco dei primi due secoli, di 200 anni, gli anni di persecuzione vera e propria, sono stati abbastanza ridotti, per quanto crudele possono essere state, nessuno questo lo mette in dubbio, però la normalità era altra. Ecco, possiamo rileggere un attimo la storia di questi primi due secoli da questo punto di vista? Cioè, poteva esserci una generazione di cristiani, cioè un arco temporale di 30, 40, 50 anni senza persecuzioni, quindi in cui la vita della comunità si sviluppava tutto sommato in maniera normale? Ma tenendo sempre presente appunto i vuoti della nostra documentazione, noi dobbiamo fare un discorso molto generale, nel senso che qui quando parliamo di persecuzione dobbiamo anzitutto distinguere fenomeni locali da provvedimenti generali sul territorio dell'impero romano. Fenomeni locali, adesso a prescindere anche da Roma, in generale, ce ne sono stati sicuramente attestati ben prima del III secolo, ben prima, ma un provvedimento generale contro i cristiani non si è di fatto realizzato se non dalla metà del III secolo, cioè solo da questo momento, da Decio in poi, che l'imperatore emette un provvedimento anticristiano. È tutto per questa nostra prima parte. Vi rimando alla prossima puntata per il seguito e alla nostra pagina Facebook Roma, la Chiesa nella città. Grazie.